Io non intendo assolutamente entrare nel merito, ricordo soltanto che i giudici applicano criteri legislativi, cioè interpretano norme che hanno individuato i criteri in base ai quali bisogna valutare le situazioni nelle separazioni tra coniugi dal punto di vista economico. Lei non crede che in linea di principio, nelle cause di separazione, al di là della vicenda Berlusconi, il fatto che ci sia un giudice donna piuttosto che un giudice uomo possa in qualche modo influire anche, avere non so, un giudice donna, un occhio di riguardo più per la madre, soprattutto se ci sono dei figli in caso di separazione, un giudice uomo più per il padre? Ma la prego, non è assolutamente tollerabile un ragionamento di questo genere. Tra l'altro ci riporta a antiche polemiche dell'epoca in cui si parlava dell'ingresso in magistratura delle donne come di una calamità che avrebbe modificato in negativo l'attività giudiziaria. Ma di che cosa stiamo parlando? Respingo con assoluta fermezza ogni riferimento al genere per quanto riguarda il senso delle decisioni che si prendono. I giudizi di primo grado, quale che sia la persona che è comunque il giudizio che è predicato in discussione, sono tutti appellabili. È evidente che se vi sono degli errori potranno essere corretti dal giudice di secondo grado.